devi bisogna raggiungere un'organicità del movimento e non svelare tutte le strutture attraverso le quali ti stai muovendo. Perché tanto sono visibili all'esterno, cioè è visibile che il corpo è rilassato e armonico, invece che muoversi per volontà esterna, si muove per una coscienza interna. Questo passo è diverso da questo passo. Ok, Atlante, un passo avanti. Yes. Atlante, un passo indietro. Coccige, un passo avanti. Coccige, un passo indietro. E da, cioè, da qui che parte il movimento, ha una qualità completamente diversa. È un'apertura anche diversa. E chiudiamo all'indietro. Adesso facciamo questa. Un impulso un po' più forte, quindi sono dritta, l'Atlante va in avanti e mi faccio un passo. Adesso con l'impulso all'indietro l'Atlante sta all'indietro. E il piede segue, le gambe sono morbide, quindi più che camminare quasi strisciamo per cominciare a sentire questa mobilità. Adesso il coccige che ci spinge in avanti con un impulso, piegando le ginocchia, lo sentiamo tutto. Yes. Occhio alla schiena avanti, deve stare comunque sempre verticale e non ti devi spingere indietro. E morbidi il più possibile, perché per far funzionare questi meccanismi ossei, non muscolari, questi sono meccanismi ossei della struttura interna del nostro corpo, bisogna che la muscolatura esterna ceda. Deve cedere tutto, perché soltanto usando le ossa, quindi le direzioni, le ossa sono dei corpi rigidi che hanno delle direzioni, riusciamo a risvegliare la muscolatura interna, che è quella attaccata alle ossa, e che è quella che può guarire qualsiasi. Se noi riusciamo a riattivare la muscolatura interna, riusciamo a riattivare la funzionalità organica di tutta la colonna e dell'ossatura. E a spostare problemi che vengono definiti ortopedici. Tutto questo viene fatto in un laboratorio di espressione vocale, perché la voce è uno strumento interiore, e se l'interiore è bloccato da tutte le forzature che imponiamo al nostro corpo, chiaro che la voce stessa non avrà una sua libertà. Dentro la sua storia ci saranno mille spezzature, tutto quello che noi abbiamo scritto nel corpo la voce lo rilegge. Quindi prima schiodiamo l'interno per aprire, e l'interno si schioda lavorando sulla struttura ossea. Coccige in avanti, chiamiamo sacro, no? Si chiama sacro, l'osso sacro, perché è l'ultimo che si decompone rispetto alle altre ossa, e rimane molto più a lungo di tutte le altre ossa, tanto che in antichità si pensava che fosse il punto di connessione per la risurrezione del corpo, così come viene intesa dalla Chiesa Cattolica. Non so se viene intesa così anche da tutto il cristianesimo, o forse sì, non lo so, comunque per la Chiesa Cattolica è così. E quindi viene definito l'osso sacro, e per di più questa forma triangolare che richiama la Trinità Divina, eccetera. Ok, quindi coccige in avanti, con un piccolo impulso. Coccige all'indietro, diafra, una culata, all'indietro. E di nuovo. E di nuovo all'indietro. L'indietro più semplice, che è la coda. La coda è più grande. E spinge un passo. La coda è più grande. E se invece la coda vuole andare a destra? Fa uno. Fa due, impulso, sempre alzato, non importa quanto vi spostate, l'importante è che l'impulso sia dell'osso e non della vostra volontà muscolare. In qualche modo possiamo fare un accostamento tra muscolo, muscolatura e ossa, ego e anima. Ok. Adesso che abbiamo un attimo di connessione con il sacro e l'atlante, iniziamo a disegnare mentalmente le diagonali che passano dal mignolo del piede al centro del corpo, dal mignolo del piede al sacro, al mignolo opposto della mano. Dal mignolo del piede al sacro, al mignolo opposto della mano. Stessa cosa, immaginiamo le diagonali dal mignolo della mano all'atlante, al mignolo del piede opposto, dal mignolo dell'altra mano all'atlante, al mignolo del piede opposto. Quando vuoi puoi fermare, tirare. Ok, lasciamo. Proviamo a muovere il mignolo della la mano connettendo il mignolo all'atlante. Quindi solo il movimento. È solo il mignolo che stiamo visualizzando insieme all'atlante. Tutto il resto non ci interessa. Mattia, sapri tutta la mano però, se no così è più facile per il tuo corpo, per i tuoi muscoli egotici. Così bisogna proprio imparare i trucchi per liberarsi dell'azione muscolare che per noi è fondamentale, invece se riusciamo a usare la struttura ossea abbiamo una forza interna con la quale possiamo scaricare a terra e volare in cielo e non usare la forza fisica il meno possibile. Paradossalmente i muscoli si sviluppano molto meglio e molto più forti. Quindi adesso iniziamo una cosa che è da dire, l'Atlante è il punto da cui diramano le radici verso il cielo e il sacro, le radici verso terra. Se iniziamo ad avere questo tipo di radicamento doppio, che siamo noi, cominciamo ad avere una dimensione in cui non si perde l'equilibrio, si sta, perché noi rappresentiamo il centro di questa operazione. Quindi muoviamo le mani, le braccia, connettendole all'atlante, solo all'atlante adesso. Cerchiamo di farle lavorare, soltanto come se esistesse questo filo invisibile che fa muovere, come se fossimo dei burattini. E la nostra energia venisse data dai raggi dell'atlante sui nostri mignoli. Il resto del corpo è morbido e seco. Sì, aiutaci più, secondo qualche cosa. Stessa cosa. Muoviamo le gambe, mettendo i muscoli, i mignoli del piede al sacro. Quindi il sacro che ci appaglia, siamo sempre morbidi sulle ginocchia. E piano piano facciamo in modo che questa connessione dei mignoli delle mani con l'atlante passi anche ai mignoli delle mani con il coccige e ai mignoli dei piedi con l'atlante. E creiamo linee ci portano, ma non usiamo i muscoli. Appena sentite un muscolo che si sta imponendo per farvi muovere il braccio, spegnetelo, smollate tutto, riprendete la connessione sacro-atlante e rifate una connessione con il mignolo che vi può portare qui e poi invece è il mignolo che vi porta qui. Facendo un livello più esplicito, adesso io ci ho già lavorato, quindi per voi deve partire qua da un piccolo conoscere, come sta facendo Giuseppe, piccolo, piccolo, piccolo, che è una missione di presa di consapevolezza prima di tutto. Oxigenate the universe. esplorato, perché le piante chiamano questa terra. E sei a terra. Il coccige si rialza. Proviamo a fare una semplice camminata percependo e connessione con la piana, se no è controllato e ancora più complicato per come siamo organizzati a camminare. Trovare una connessione. Adesso passo tra di voi e vi affido un oggetto performativo. Con quale potete? Deambuliamo nello spazio. Ok. C'è una persona che non vede al momento, che è bendata. Mattias, tu vedi? Okay. Yes. Tu vedi, sì. Teresa non vede, quindi stiamo attenti. E cerchiamo di, per esempio, con la persona che non vede, di far sentire la nostra presenza. e non di semplicemente rispettare la sua cecità lasciandola a se stessa, ma cercando di operare in dialogo. E pian piano che lo spazio gentilmente, delicatamente, con questa connessione Atlante sacro, e facendo in modo che ogni passo sia guidato dai nostri migliori dei piedi, che si connettono al sacro o all'Atlante. Mimetti le mani, lavorano in modo che le braccia si equilibrino il disegno del corpo, lo rendono poetico, aperto, espanso. Quindi liberare anche tutte le tensioni ossee dalle braccia, sempre. Atlante sacro mio, piano piano. Thank you. nessun movimento deve essere volontario, ma deve partire dal muscolo interno osseo. La volontà dovete ricostruirla per averla interna. Al di là del lavoro che fa ognuna, qui siamo un lavoro di studio delle ossa e di liberazione degli impulsi profondi del corpo e dell'espressione. È la performativa, l'atto performativo. È solo per chi lo fa, diciamo, di mestiere, nel senso che dedica la sua vita a questo, è un atto speciale, ma in realtà è un atto che tutti dobbiamo compiere, e la nostra vita stessa è un atto performativo. Qui il teatro, per quanto mi riguarda, è il veicolo attraverso il quale possiamo cambiare la qualità della vita dell'intero genere umano. Uno dei tanti modi. Insieme all'Atlante sentiamo anche il centro della testa, dal quale parte il raggio di confronto verso il cielo. Thank you. accanto alla parola. Oh, Da. Lumel. E cambiato qualcosa. E cambiato qualcosa. Okay. Nel momento di raccoglierà e di spostamento. Il momento di spostamento. Wow. Che okay. La luce. Una cosa che è stata fatta da me nei primi momenti di questo laboratorio è una pratica rituale poetica, non un rito diciamo legato a qualsiasi dottrina, quasi voglia. L'ho chiamato il rito la celebrazione della morte della voce dell'anima, con il paradosso che non è la voce, non è l'anima ad avere una voce, ma è questa stessa voce. Quindi è una sorta di, è una morte, la mimesi di una morte, quindi la mimetica, il disegno creativo, performativo di una morte, per passare alla coscienza il valore che dobbiamo spostarci da una vecchia idea della voce. Perché la voce è qualcosa che è partito dentro di noi da sempre, dal primo vagito che abbiamo emesso. Ma poi l'abbiamo sviluppata, perché non abbiamo lavorato, cioè, però l'abbiamo sviluppata come il battito cardiaco, come qualcosa di autonomo, di automatico. Per togliere questo automatismo, prima di tutto, per come la vivo io, insomma, la poesia che vi offro io è un momento di disegno come un sogno per scrivere, che c'è bisogno di una morte e di una rigenerazione di questa facoltà che abbiamo, per poter fare in modo di lavorare coscientemente, di dirci ok, da questo momento in poi decido che voglio essere cosciente della mia voce, che la faccio rinascere io. Sì. Io la rimetto al mondo, io mi rimetto al mondo. Questa operazione è formata, è costituita così, con un cerchio. Chi si pone al centro celebra la morte della voce della sua anima, che risorgerà in anima voce. Gli si verranno bendati gli occhi, dovrà dire le sue ultime parole e poi si adagerà a terra come un sepolto. Intorno a lui, intorno alla persona, gli altri intonano un lamento funebre, al termine del quale le persone chiameranno di nuovo la luce della persona. E oggi che abbiamo questa bella luce primaverile, per ognuna delle risurrezioni riapriamo la luce del sole, ci riportiamo alla luce. E quindi siete tu e lei che dovete operare questo passaggio, questo rito di passaggio. Vi benderò gli occhi con questo e vi coprirò con questo. E poi intoneremo il canto funebre. Alla chiusura verrete chiamati alla luce e potete fare parola, potete dire una cosa se volete. Allora, ti tolgo gli occhiali, thank you. non vuoi dire niente. Si sta arrivando, mi sto aspettando. Thank you. Ma una persona. Ma gatto! Lavorerà con il corpo. L'altra persona lavorerà con la voce. Chi lavora solo con la voce rimane fermo e immobile. È la voce che...